La domenica andando alla messa, accompagnata dai miei amatori, mi sorpresero i miei genitori, monachella mi fecero andare, oi sì sì, oi no no. Piangete, han tagliato i miei biondi capelli, tu lo sai, eran ricci, eran belli. Giovanotti, piangete con me, oi sì sì, oi no no. Giovanotti, piangete con me, dimmi che m'ami. See you.